Noi abbiamo cercato di fare il massimo, ma io attualmente a Monterosso ho ancora un numero minimo di 60 frane ancora aperte. Se non mi danno dei fondi, i fondi quantomeno promessi, non riesco a metterla a posto, ma non ce la fa Monterosso, non ce la fa Vernazzo, non ce la fa Borghetto, non ce la fanno tutti quanti gli altri, perché il problema è sempre lo stesso. 60 frane ancora aperte, quindi vorrebbero dire 60 punti fragili del comune, 60 punti... No, ma di più le dico, perché per esempio quello che è successo il 25 ottobre, no, di un terreno integro che è franato. Adesso, se piovesse tanto come il 25 ottobre, chi ce lo garantisce che altre zone attualmente integre come l'anno scorso adesso non franino? Non si può neanche più vivere in questo modo qua, secondo me.